Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ci sono storie vere che ispirano la penna degli scrittori, ma ci sono anche storie che sono già di per sé dei romanzi, insomma, che si raccontano da sole. Una di queste è la storia di Aimone Canape. Oggi ha 87 anni ed è l'unico testimone vivente della cattura di Mussolini avvenuta a Dongo nel 1945. Dopo anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua storia ad un giornalista, Marcello Foa, che l'ha fatta diventare appunto un libro, Il ragazzo del lago, pubblicato da PM. Ecco come l'autore ci parla dell'uomo che è poi il protagonista del romanzo. Aimone Canape è l'ultimo testimone della cattura di Mussolini a Dongo. È un partigiano che fino ad oggi non ha mai voluto svelare il suo ruolo, che l'ha mantenuto segreto e che improvvisamente oggi, avendomi dato fiducia, ha pensato di raccontarla, e io ne ho fatto un libro che è molto affascinante, un po' perché appunto svela alcuni dettagli storici sconosciuti, ma perché in questo libro narra una storia di rara intensità umana che mette in evidenza le straordinarie coincidenze del destino, sia nella vita di Aimone Canape, che era un giovane apprendista cameriere nel 1938, sia nel destino di Mussolini. Come hai fatto a convincere Canape a raccontarti la sua storia, visto che per sua volontà è rimasto, come dire, nell'ombra per tanti anni? Ancora una volta è il destino, cioè ci sono noi giornalisti, cerchiamo spesso delle storie e non le troviamo, invece io non ho cercato questa storia e mi è arrivata da sola, nel senso che io ho un carissimo amico che si chiama Emilio Zuccoli, a cui il libro è dedicato, che conosce da tanti anni Canape e mi diceva: vieni, devo presentarti qualcuno, un personaggio davvero notevole. Ho incontrato Aimone Canape, ne sono rimasto molto affascinato, si è instaurata un'amicizia e insomma mi ha dato fiducia, è nata questa amicizia tra di noi, e dopo qualche visita, qualche bella pranzo nella sua bella casa sopra Dongo, ha accettato di raccontarmi la sua vita, e io ne ho fatto un libro che è un romanzo storico, cioè scritto una storia vera scritta come un romanzo. In questo romanzo non c'è solo la storia con la S maiuscola, insomma, Mussolini, la cattura di Mussolini, i partigiani, ma c'è anche la storia personale di Aimone, fin da quando era un ragazzino, e anche questa è molto affascinante come storia. Ah, senza dubbio, infatti l'inizio della storia è incredibile. Lui proviene da una famiglia semplice, semplicissima, di Dongo, voleva fare l'apprendista cameriere con la speranza di diventare maître d'hôtel, perché così gli aveva suggerito lo zio emigrato in America. E inizia a fare il suo stage nell'hotel Swiss, Metropole Swiss di Como, che ancora oggi esiste, e il figlio dei proprietari dell'hotel Metropole Swiss doveva andare in Germania a fare uno stage presso la famiglia Hannover, famiglia ancora oggi molto conosciuta, solo che questo ragazzino si ammala e la zia di questo ragazzino, avendo preso in simpatia Aimone, gli dice: ma perché non vai tu? E lui alla fine parte, siamo nel 1938, no? Ha 16 anni e mezzo, va in Germania a Oberhof in Turingia, in un castello incredibile, incantato, in un lusso sfrenato, per fare questo stage da giovane apprendista italiano. E qui la sua storia piccola, diciamo, già inizia a intrecciarsi con la storia con la S maiuscola, perché c'è l'incontro con Hitler. L'incontro con Hitler in realtà arriva dopo, a Berlino. Quel che è incredibile è che lui, per una coincidenza, per un fatto che non sveliamo qui perché sennò il lettore perde il gusto della lettura, lui si ritrova a Berlino trattato non come un giovane apprendista cameriere, ma come un nobile aristocratico della nobiltà tedesca dell'epoca. E durante il primo bombardamento aereo di Berlino nel 1940, episodio questo che pochi ricordano, lui scappa nei rifugi dell'hotel Kaiserhof, che era il più bello albergo dove lui svolgeva uno stage e che era adiacente alla cancelleria. Che cosa accade? Che i cunicoli erano in comune tra la cancelleria e l'albergo. Aimone, nella concitazione, sbaglia strada, anziché andare a destra va a sinistra, per cui imbocca la via per andare nel bunker del cancelliere, cioè nel bunker di Hitler. E viene bloccato dai militari. In quel momento arriva Hitler. Hitler lo guarda e lo fa entrare con sé nel bunker. E che cosa si sono detti? Ma il dialogo è un dialogo semplice, questo ragazzino imbarazzatissimo di fronte al Führer, è un dialogo per cui è molto semplice, ma con una fortissima impressione umana. Cioè Aimone lo ricorda come non lo spietato dittatore che noi tutti abbiamo in mente, ma come una persona che nel rapporto con le persone più semplici era estremamente affabile. suadente, si interessava, gentilissimo. E questa sua testimonianza, poi l'ho verificata con altre testimonianze, effettivamente Hitler, in questa sua personalità molto complessa, aveva questo tratto. Con molte persone del popolo sapeva essere a tu per tu, di una gentilezza estrema. Altro episodio centrale del romanzo è sicuramente la cattura di Mussolini. Dal suo racconto si apprende qualcosa di nuovo su quell'episodio? Allora, lui, diciamo così, lui svela il suo ruolo. Lui è stato il primo partigiano che è andato a trattare con la colonna tedesca ferma tra Musso e Dongo. E ci è andato perché era l'unico che a Dongo sapeva parlare il tedesco. Diciamo così, nel libro lui racconta due o tre dettagli incredibili. Una serie di equivoci che inducono i tedeschi a credere che a Dongo ci fossero 3.000 partigiani pronti a far fuoco su di loro. In realtà a Dongo c'erano 3.000 erano gli abitanti del paese e i partigiani erano poche centinaia e male armati. Ma ci sono delle coincidenze in cui Aimone gioca un ruolo significativo che inducono i tedeschi a credere che un agguato si prepara dietro l'angolo. Insomma, la resa è avvenuta anche un po' per un caso. Io nel libro non svelo tutto, ma ci sono tre coincidenze incredibili che fanno sì che Mussolini dovesse finire i suoi giorni proprio lì. Addirittura, ad esempio, noi parliamo del famoso posto di blocco tra Dongo e Musso. In realtà non era un posto di blocco, era un albero, un tronco d'albero che era appoggiato lungo la via perché doveva servire come palo della luce, che fu messo dai partigiani di traverso per la strada. E questa colonna di soldati tedeschi in fuga ben armati si ferma di fronte a un palo messo di traverso su una strada all'alba tra Musso e Dongo. Sarebbe bastato toglierlo e proseguire, e invece loro si fermano. Insomma, la casualità della storia. È la casualità della storia che si intreccia con la forza del destino e la straordinaria umanità, che forse appunto noi siamo abituati a considerare questi episodi solo nella loro valenza storica. In realtà ci sono tante piccolissime storie umane, come quelle di Aimone Canape, che ci permettono di raccontare quelle vicende con un taglio intimo e davvero umano. Fatto, i piccoli episodi poi fanno la grande storia. Direi che in questo libro questa caratteristica emerge con molta forza. Di quell'episodio lì, cioè della cattura di Mussolini, che cosa ricorda Aimone? Secondo te quali sono le sue sensazioni più forti di quell'episodio e di quel ricordo? Allora, lui lo ricorda visivamente, lui l'ha accompagnato dentro al comune di Dongo, è rimasto con lui qualche minuto, ricordo come un uomo completamente sfatto, un uomo pallido, gli occhi cerchiati, depresso, veramente l'ombra di quell'uomo che tutti ricordavano. E questo era Marcello Foa, autore di Il ragazzo del lago, pubblicato da PM. Per il consiglio d'autore oggi la parola va a Camilla Baresani, ora in libreria con Un'estate fa, edito da Bompiani. I miei due consigli di lettura. Uno è di un autore italiano che a me piace moltissimo, si chiama Gaetano Cappelli, ha scritto diversi romanzi, quello che per chi non lo conoscesse mi sento di consigliare è Parenti lontani. È un bravissimo scrittore, molto brillante, questa è una saga familiare che si svolge in Basilicata, ma il sud che racconta Gaetano Cappelli è diverso dal sud di tutti gli altri scrittori meridionali. È un sud spiritoso, trattato come la California, borghese, abbastanza in genere esente da mafia, camorra, da queste cose qui. Sarà anche perché Gaetano Cappelli è di Potenza e la Basilicata è abbastanza un'isola rispetto ai problemi di malavita che affliggono gli altri paesi, le altre regioni del meridione. L'altra è una scrittrice, si chiama Clarice Lispector, è una scrittrice ebrea, ucraina, brasiliana, tanto per farla un po' più complicata, cioè di origine ebrea, nata in Ucraina e ha sposato un diplomatico in Brasile, quindi ha vissuto sempre in Brasile. Clarice Lispector, una donna bellissima, molto elegante, che oltre alla sua bellezza e eleganza aveva uno stile di scrittura inimmaginabile, elegantissima e di una cattiveria, ma anche di una tolleranza e di una capacità di comprensione, comunque di enorme lucidità, anche spiritosa. E il libro che consiglio si chiama Legami familiari ed è edito da Feltrinelli. I consigli di Camilla Baresani erano dunque Parenti lontani di Gaetano Cappelli, pubblicato da Marsilio, e Legami familiari di Clarice Lispector, Feltrinelli. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. libro.it anche in versione podcast. Un buon sabato sera da Alessandra Tedesco.